con Valeria Venditti, curatrice della serata che ci sarà al Cine de Tour a Roma sabato 13 aprile 2019 con la proiezione del documentario di Fabrizio Terranova Donna Haraway, Storytelling for Earthly Survival. Valeria, ben trovata. Ciao, ben trovati. Come lo racconteresti brevemente? Forse non lo racconterei, cioè è un documentario che va veramente visto, perché è un documentario speciale, come speciale secondo me Donna Haraway, e ciò di cui parla nel documentario. Come hai detto tu, il titolo è Una narrazione per la sopravvivenza della Terra. È già interessante che qualcuno si metta a raccontare delle storie per far sopravvivere la Terra, no? Siamo abituati alle chiappe antropomorfizzate, a storie che servono per salvare noi stessi, per creare la nostra storia. Invece quella che Donna Haraway mette in scena insieme a Fabrizio Terranova è piuttosto una storia fatta di parole, ma anche di gesti, di immagini, di modalità estetiche o digitalizzazioni filmiche particolari che creano una storia materica, una narrazione piuttosto che c'è nel linguaggio, ecco. E è una risposta che è un po' che mi devo vedere. No, lo descriverei così, come un film speciale, perché è un film che racconta qualcosa che non può essere raccontato, no? La Terra non si può raccontare, la Terra è materia. Allora parliamo un po' del personaggio, Donna Haraway. Che ci dici di lei? Lei è una, insomma, delle più grandi, oramai diciamo entra sicuramente nel novero delle più grandi femministe viventi e comunque di coloro che hanno fatto la storia del femminismo. Il lavoro più famoso è sicuramente il Manifesto Cyborg, che ha aperto a tutta una serie di studi sul postumanesimo, che ovvero no, sul bisogno di forse uscire dalla dicotomia maschio-femmina, uscire un po' da quello che ha sempre fatto la filosofia, cioè guardare all'umano e andare un po' oltre. E però Donna Haraway tante cose, soprattutto appunto forse quello che viene restituito tanto da questo documentario è la capacità di questa autrice di lavorare oltre, ovvero andando al di là di quelle che sono le matrici classiche oppure le definizioni che di solito utilizziamo per osservare il reale, utilizziamo in filosofia, oppure insomma in quelle che si chiamano più generalmente le humanities. È molto importante per il femminismo, ma è una teorica femminista piuttosto atipica, perché fa teoria appunto attraverso mezzi che non sono quelli della teoria, cioè riesce sempre ad andare un po' oltre, e per questo è anche importante l'idea di una narrazione. Si parla tanto nel documentario di fantascienza, in quasi tutti i testi di Haraway c'è la fantascienza, c'è la necessità di andare oltre la disciplina, di raccontare, di trovare un nuovo linguaggio per avere nuove idee, per parlare nuovamente agli esseri umani e alla Terra. Quali sono le sue indicazioni rispetto alla sopravvivenza della Terra? Un tempo molto pessimista e decisamente ottimista. Cioè, molto spesso ci sentiamo dire appunto che il capitalismo, l'industrializzazione, l'uso sconsiderato di risorse sta facendo finire la Terra. E c'è spesso, no, tra le linee degli ambientalisti un grido al lasciare più attenti, consumare di meno, non rovinare le risorse, non finire le risorse della Terra. Ma sono, quando parlo di Donna Haraway, quasi tutti i gridi volti a salvare l'essere umano. Essere umano che, e qua c'è il lato positivo, cioè tutto questo è vero, stiamo rovinando ciò che abbiamo intorno, ma non è l'essere umano per forza a dover essere salvato. E qui c'è il grande ottimismo di Donna Haraway, cioè il mondo andrà avanti senza di noi una volta che avremo finito di distruggerlo. Cioè, con i nostri mezzi il mondo e la vita troverà modo di andare avanti oltre l'essere umano, è un po' come dire abbiamo bisogno di qualcosa che vada oltre il linguaggio, oltre quello che conosciamo, perché tanto non siamo necessari. Come sarà articolata la serata? In realtà abbiamo deciso insieme a Cristina e alla ragazza del Zadur di fare qualcosa di molto semplice, nel senso cercheremo al di là di un piccolo, una piccola introduzione sul documentario, vorremmo veramente che sia il documentario il centro della serata, senza poi togliere niente magari a delle chiacchiere dopo, un piccolo così incontro magari a fine proiezione, però ecco, al di là di qualche presentazione e qualche appunto sul film, preferiremmo parlassero le immagini. Per saperne di più sull'argomento, ma anche sul personaggio, ci dai delle indicazioni internet? Allora, sull'argomento c'è il sito del Uscita del Zadur, chiaramente, dove trovate le informazioni proprio sulla serata. C'è anche l'evento, sì. Sì, c'è anche l'evento, penso anche su delle pagine Facebook, adesso mi dispiace, non sono così social. C'è chiaramente un bellissimo sito invece proprio del documentario, per cui della produzione, e su Narrowway si trovano, e chiaramente diciamo in occasione dell'uscita di questo documentario ho avuto modo di vedere che ci sono tantissimi siti che danno spazio al documentario. Pochi giorni fa giravo un po' su internet e ho trovato un articolo piuttosto diciamo didascalico, quindi non molto, che non è un termine brutto, diciamo, sì, non molto complesso ma anche informativo, su un blog che si chiama La sepoltura della letteratura. Poi ci sono moltissime cose in inglese su, non so, mi viene in mente Viewpoint Magazine, Hyperallergic anche, okay, è un altro, tanti tutti quanti appunto, Westlash, che sono magari dei siti in inglese ma dove si possono trovare delle cose interessanti. Allora ricordiamo l'evento con la proiezione del documentario Donna Haraway Storytelling for Earthly Survival di Fabrizio Terranova a Roma, Cine de Tour, sabato 13 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici della serata, Valeria Venditti. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto.